Viene il dottor G. 21 maggio. Una notte molto agitata. W rimase qui quasi sempre. Egli volle parlare ma non riesce. Sembra comunque che capisca ciò che dico. Sulla strada che porta al castello ho incontrato il dottor G, che ebbe un colpo a 80 anni durante la caccia, alla stazione. Lo riconobbi subito. Egli mi venne incontro e mi porse la mano. Sembrava proprio naturale come un uomo. Non potei far niente con lui, perché purtroppo non ero sola. Egli camminò a lungo accanto a me. Un'altra volta ancora molto difficile, essere divisa. Speravo di rivederlo al ritorno, e perciò rimasi alquanto indietro, ma purtroppo non venne più. Invece quando arrivai a casa fui accolta dagli 11. 22 maggio. Musica. Dopo venne W sempre uguale ma non difficile. Finalmente W parla. Io, sei franchi W? Lui, sì. Io, soffri molto? Lui, sì. Io, in che modo posso aiutarti? Lui, sacrificio. Io, e di che cosa? Lui, te stessa. Io, lo faccio pure. Lui, non abbastanza. Io, che cosa devo fare ancora? Lui, devi staccarti. Io, non puoi pretendere troppo da me, sono ancora tanto debole e non sto bene. Va da persone migliori. Allora venne verso di me, poggiò la sua mano sul mio braccio e disparve. Lo so, sono attaccata ancora molto. Avrò la forza di sopportare tutto? Per intanto non ancora, se voglio essere giusta. Mi riesce molto spassoso vedere così adesso il cerimonioso consigliere demaniale W, per esempio, specialmente quando mi fa del male. Me lo ricordo ancora troppo umanamente. 24 maggio. Egli venne, due volte. Nemmeno una parola. 25 maggio. Nella mia stanza ci fu un frastuono orrendo, strepitio e gemiti. Non potei vedere nulla. Io, chi è là? Risposta, molti. Io, è la voce di Fridolino. Lui, sì. Perché non ti posso vedere. Lui, perché sei a Malta, ed era vero. Io, chi porti ancora con te? Lui, non li conosco. Io, dimmi perché non posso vedere quando sono ammalata? Lui, la capacità soffre insieme. Io, potresti aiutarmi? Lui, no. Io, come fai a vedere che soffro? Lui, non attiri. Io, e allora perché siete ancora qui? Lui, è la nostra strada. Il frastuono intorno a me durò ancora a lungo ma non ottenni più alcuna risposta. Ebbi ancora per un pezzo l'impressione di non essere sola, cosa molto penosa. Sono molto mal soddisfatta di me stessa perché penso troppo a me, sono scoraggiata e tanto stanca.